Grazie. Vogliamo pregare insieme? Preghiamo insieme, Chiesa, preghiamo per questo ministro fantastico. Lui ha chiesa in Austria, ma sta influenzando molto la nostra nazione con messaggi freschi e noi vogliamo benedirlo anche, sì? Grazie Padre, perché tu hai in mente per noi un messaggio che certamente trasformerà la nostra esistenza. Vogliamo tornare a casa pieni del tuo spirito più di quando siamo arrivati. Benediciamo il pastore Gianni, che ogni sua parola possa essere nella tua autorità, nel tuo nome Gesù. Amen. Amen. Amen. Grazie. Buonasera. È un vero piacere essere qui, non era nei piani, ma è nell'ultimo momento, siamo spontanei noi italiani, no? In Austria non funzionerebbero, in Austria non si può fare le cose così spontanee, quindi devono sempre essere pianeggiati da tempo, quindi si perdono delle cose belle come queste, no? Ok, allora voglio entrare nella parola di Dio oggi, leggeremo insieme, se tu hai il tuo iPod, dove hai la Bibbia, non so dove, ma negli Atti capitolo 4. Grazie per l'onore di parlare a voi, essere con voi. Mentre cantavamo ho sentito questa parola, di dirvi questa parola per voi come Chiesa, è soltanto l'inizio. È soltanto l'inizio. Ditelo a me ora, è soltanto l'inizio. Ora come se lo credi, è soltanto l'inizio. È soltanto l'inizio. Ok, yes, come on. Ok, Atti capitolo 4. Leggo dal verso 1, leggerò un bel po' di versi, quindi rimanete qui con me, se mai leggete insieme a me, non andatevene a nessuna parte con la mente, rimanete qui, ok? Allora, aspetta un po', fammi il mio telefono, pronto, vai. Ok, l'arresto di Pietro e Giovanni, questa è la storia, ok? Stavano ancora parlando al popolo, quindi Pietro e Giovanni stavano predicando e all'aperto, diciamo, e sopraggiunsero i capi sacerdoti, i capitani della polizia, del tempio e alcuni sadducei. Erano indignati del fatto che Pietro e Giovanni insegnassero al popolo. Dovete comprendere una cosa qui, la chiesa degli Atti degli Apostoli sta proprio iniziando, ci sono molte cose che succedono, è molto exciting, succedono molte cose belle, miracoli, guarigioni, Gesù è risorto. Sapete quando Gesù è risorto, la gente non sapeva molto in effetti di quello che noi sappiamo oggi. Per noi, per esempio, la morte di Gesù e la risurrezione di Gesù ha a che fare con la nostra vita, vero? Noi diciamo Gesù è morto per me, per i miei peccati, ma all'inizio la gente non pensava che Gesù era morto per i loro peccati, non lo sapevano in effetti, anche i primi credenti, no? E quelli che pensavano loro è che tramite la risurrezione la rivoluzione poteva iniziare ora. Quindi la morte e la resurrezione di Gesù non era una cosa personale, il che è bello, ma Gesù non è venuto per avere una relazione personale con noi soltanto, vuole avere la relazione personale con noi, ma tramite questa relazione vuole influenzare il mondo. La resurrezione di Gesù, io predico in tedesco normalmente, quindi perdonatemi, la resurrezione di Gesù era l'inizio della rivoluzione. Era come ora possiamo cambiare, veramente possiamo cambiare il mondo, capito? E quindi quando noi festeggiamo la risurrezione di Gesù, non è soltanto per noi, ma anzi è perché ora abbiamo il diritto di pensare che possiamo cambiare il mondo. Questa è la risurrezione di Gesù. Quindi erano pieni di questa euforia e predicavano, e questo poi è successo, non erano tutti contenti, molta gente erano contentissimi di quello che stava avvenendo e accettavano anche, diciamo, davano la loro vita al Signore, si pentivano dei loro peccati, venivano battezzati, ma qui invece vediamo i capi dei sacerdoti, i capitani della polizia, del tempio e alcuni sadducei erano indignati del fatto che Pietro e Giovanni insegnassero al popolo, ma soprattutto perché proclamavano ai quattro venti che grazie a Gesù era possibile risorgere dalla morte. Perciò li arrestarono e poiché era già sera li gettarono in prigione fino al giorno dopo. Tuttavia molte persone che avevano udito le parole degli apostoli credettero e a questo punto il numero dei credenti aumentò fino a 5.000 uomini più donne e bambini. Il giorno dopo i capi del popolo, gli anziani e tutti i capi giudei si riunirono a Gerusalemme. C'era Anna, il sommo sacerdote, Caifa, Giovanni, Alessandro ed altri parenti del sommo sacerdote. I due discepoli furono portati alla loro presenza. Chi vi ha autorizzato a fare queste cose? Gli dissero. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi e anziani, nel nostro popolo ascoltate, se vi riferite alla buona azione fatta allo storpio e al modo in cui è stato guarito, sia ben chiaro a voi che e a tutto il popolo di Israele che questo è avvenuto nel nome e per merito di Gesù di Nazareth, il Messia, l'uomo che voi... Psycho friendly preaching, eh? L'uomo che voi avete crocifisso, ma che Dio ha risuscitato. E per merito suo, quest'uomo si presenta a voi completamente guarito. Perché Gesù, il Messia, è quello a cui si riferiscono le scritture, quando dicono è lui la pietra che voi costruttori avete scartato, che è diventata la pietra angolare, una pietra molto importante della costruzione di ogni edificio. Allora, Gesù Cristo e nessun altro può darci salvezza, non esiste altro nome sotto il cielo che gli uomini possono invocare per essere salvati. Davanti alla sicurezza di Pietro e di Giovanni, noti a tutti come popolani senza cultura, sapete, la traduzione, diciamo, l'originale dice, vedendo che erano idiotes agrammatos anthropos. Veramente, nel greco dice che hanno visto che erano idiotes agrammatos anthropos e i presenti restarono stupiti riconoscendoli come coloro che erano stati con Gesù. Vedendo poi lì in piedi vicino a loro quest'uomo che era stato guarito, non sapevano proprio cosa rispondere. Allora fecero uscire Pietro e Giovanni dalla camera del consiglio e si misero a discutere tra di loro. Che ne facciamo di questi uomini? Si chiedevano. Non possiamo certo negare che abbiano compiuto un grande miracolo. Tutta Gerusalemme ne è al corrente. Forse possiamo vietare loro di fare propaganda. Dobbiamo proibire loro con severe minacce di parlare ancora di Gesù. Così la cosa non si diffonderà ancora di più. Perciò, dopo averli richiamati, ordinarono loro di non parlare più di Gesù e tantomeno di insegnarne il suo nome. Ma Pietro e Giovanni risposero: decidete voi stessi che cosa è più giusto davanti a Dio, obbedire a voi oppure a Lui. Come facciamo a non parlare delle cose meravigliose che abbiamo visto e udito da Gesù? Sentite, è molto molto importante che ognuno di noi vede qualcosa e sente qualcosa. È molto importante. Quando tu hai visto qualcosa, hai sentito qualcosa, non puoi più smettere di parlare di Gesù. È molto importante che noi parliamo di Gesù, perché in effetti molta, molta più gente devono sentire che Gesù ama la gente. E poi è scritto, allora, verso 21, allora quelli che li minacciarono di nuovo, poi finalmente li lasciarono andare perché non sapevano come punirli senza provocare una rivolta. Che bello, eh? La gente amava così tanto i primi cristiani, la gente che dice no, se la gente è per te, stai facendo qualcosa di sbagliato. Ma non è vero. Qui la gente erano per i cristiani, non potevano essere puniti se non avrebbero causato una rivolta, immagina. Che bello, eh? Quindi vengono questi giorni ancora verso di noi dove la gente, la maggior parte della gente diranno: ma questa chiesa è bella. Questa gente è una gente bella, dobbiamo prepararci a questo. Ora, io oggi voglio parlare di intimidazione. Intimidazione, cercherò di parlare italiano, ma se dico qualcosa che non è italiano, che chiedete allo Spirito Santo di tradurla per voi. Oggi parlerò di intimidazione. Guarda, questa interruzione della predica era un'interruzione, non era un'interruzione, diciamo, che non si vedeva, che pian piano hanno detto: beh, smettete per favore. È stata un'interruzione forzata, con violenza, e questo era fatto per intimidire i discepoli. Appena questa potenza, questa chiesa potente, questi discepoli che erano pieni di aspettativa ora che molte cose sarebbero successe, molta gente era aperta a sentire il Vangelo, che abbiamo visto, molti si sono convertiti. La prima cosa che ha fatto il nemico è cercare di intimidire i discepoli. Si dice intimidire? Sì. Correggetemi se dico qualcosa di sbagliato. Volevo intimidire. Io voglio parlare di questo. Sapete perché? La Chiesa che Dio sta formando qui, il pieno Evangelo, ha così tanta potenza. E Dio vi propellerà, si dice propellerà, vi butterà dentro il mondo, no? E quando noi arriviamo e pensiamo certe volte, ora tutti i miei amici della scuola vorranno venire, saranno aperti, eccetera, eccetera, quello che succederà è che il nemico, come allora, cercherà di intimidirvi. E per questo ne parlo oggi di questa cosa. C'erano 11 gruppi diversi che minacciarono questi due discepoli. Non uno, non due. Se tu pensi che tu sei perseguitato perché sei cristiano, guarda qua, 11 gruppi diversi hanno minacciato i discepoli, Pietro e Giovanni, per quello che stavano facendo. I capi del popolo, gli anziani e tutti i capi giudei vengono menzionati qui. Sapete, quelli erano le stesse persone che condannarono Gesù poco prima. Quindi quando tu sei arrivato davanti a questa gente qua, sapevi che sei quasi morto. In Austria diciamo, it's vorbei, es ist vorbei. Ah, dice, sono quasi morto, perché questa gente qua era molto potente. Hanno condannato Gesù. Ma una cosa succede che è molto interessante, è scritto qui. Allora, Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro, sapete, quando Pietro ha visto questa situazione, questa gente che li stava minacciando e che voleva intimidirli, Pietro ha avuto come un déjà vu. Ha detto, ma io questa situazione l'ho già vista da qualche parte. E si è ricordato che aveva avuto una simile situazione un po' di tempo prima e che la sua risposta era non lo conosco Gesù, non lo conosco, non sono uno di loro. E questa volta Pietro dice, non mi faccio passare questa possibilità davanti a me senza fare una cosa diversa di quello che ho fatto prima. E c'è almeno una persona qui, tu ti senti come un vigliacco perché tu hai mancato la possibilità di dire di Gesù agli amici tuoi. E Gesù ti dice, io ti voglio tanto bene, tu non sei un vigliacco. Non sei uno che ha poco, che ha poco coraggio. Tu sei una persona che io sto preparando, come Pietro. Perché un giorno sarà il tuo nome. Una volta Marco, una volta Maria, Giuseppina. Come qui. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro, la differenza tra Pietro prima e Pietro ora, che Pietro ora era pieno di Spirito Santo. Pieno di Spirito Santo. È successo negli Atti, capitolo 1, verso 8, conosciamo bene questo verso, che dice, quando lo Spirito Santo sarà sceso su di voi, riceverete una potenza totale che parlerete di me con straordinaria efficacia a tutta la gente di Gerusalemme, di Giudea, della Samaria, fino ai confini della terra. Infatti Gesù una volta disse ai suoi discepoli queste parole. Disse, ed ora, Luca capitolo 24, verso 49, dice, ed ora manderò su di voi lo Spirito Santo come promessa di mio padre, ma non cominciate ancora a predicare agli altri, rimanete in città finché lo Spirito Santo non venga a fortificarvi con potenza. Gesù in altre parole sta dicendo, ragazzi, non andate a nessuna parte senza lo Spirito Santo, sennò quelli vi mangiano come breakfast. They will eat you for breakfast. È a colazione. Ah, è vero, scusa, in inglese. Lo Spirito Santo non è qualcosa che fanno le chiese pentecostali, le chiese che sono un po' così come il pieno Evangelo. Sì, noi abbiamo lo Spirito Santo. Gesù ha detto, non cercate di fare niente senza lo Spirito Santo, sennò vi mangiano a colazione quelli là. E infatti, se Pietro e Giovanni non fossero stati pieni dello Spirito Santo, soltanto idiote, sacramatos, antropos, non sarebbe bastato essere ripieni dello Spirito Santo che ha fatto la differenza in Pietro. E qui c'è scritto, Pietro, pieno dello Spirito Santo, ha risposto. Sentite, paura ti ferma, ma se tu vieni intimidito significa diventare timido. Ah, veramente? Sì. Intimidito, quando diventi timido, e sai che succede? Paura ti ferma, ma timidezza ti fa soltanto rallentare. La paura, per paura non parli, ma per intimidezza abbassi la voce. E per questo molta gente non nota che sono stati intimidati. Intimidati si dice in italiano? Intimiditi, grazie. Mi dovete correggere. Io imparo italiano mentre predico. Sono stati intimiditi. Sapete, io sono sicuro che c'è gente qui, in questa sala qui, non parlo di gente che è timida, no, parlo di gente che è intimidita, che Dio vuole liberare stasera. E quando finiamo qui, preghiamo velocemente che la stessa potenza che ha cambiato Pietro venga su di te e che tu sei libero di ogni intimidazione. Timidezza ti lascia andare avanti, ma a un livello più basso. Io conosco chiese che sono intimidite. Che fanno le chiese intimidite, cantano le canzoni, però hanno abbassato l'aspettativa. Noi ci siamo un po', come si chiama, arrangiati con quello che possiamo. E anni prima forse avevano... E poi succede qualcosa, qualcuno dice qualcosa, qualcosa succede nella chiesa e poi si abbassa, ci lasciamo intimidire, abbassiamo il volume. E il Signore non vuole che abbassiamo il volume. Ora non sto parlando di questo volume qui, no? Anche quello è buono avere il volume. Ma sto parlando del volume della nostra vita. Il Signore vuole alzare il volume della vita dei cristiani, non solo a Modugno, in tutta questa zona, in tutta l'Italia. Amen? La timidezza ti lascia credere le cose, ma senza passione più. Nella mia vita ci sono molti momenti che io ricordo quando siamo andati in Austria, io e mia moglie, siamo arrivati, abbiamo lasciato questa scuola biblica che ci ha proprio caricati, siamo arrivati in Austria e pensiamo ora viene il risveglio qua, in pochi anni ci sarà il risveglio. Come dicevo oggi a Bari, per 3 anni non è successo niente, una persona si è convertita perché l'abbiamo forzata a convertirsi. Adesso questa ragazza l'abbiamo incerchiato. Pray after me. Yeah. Prega questa preghiera, Signore, perdoni i miei peccati. Non l'abbiamo più vista Norbert, è sparito. Io pensavo forse è stato rapito. Oh, ha avuto una paura, se ne è scappato. Oh, eravamo in 5 contro 1, non aveva nessuna chance. Ma quello si è convertito più per noi, no? Così ci sentivamo meglio. Non era, si è convertito per lui, no? Veramente, 3 anni. 3 anni che sono stati così, così forti per me, così erano proprio la realtà, erano una realtà dura per me. Oh, arrivi e dici ora viene il risveglio. Noi predicavamo in giro in tutta l'Inghilterra dicendo alla gente che quello che succederà, che Dio farà, e poi arriviamo lì, bang! E questi 3 anni, dopo questi 3 anni, vi dico una cosa, io ero intimidito. E pensavo a tutto quello che avevo sentito, l'Austria è il cimitero dei missionari, la chiamano, no? Per incoraggiarci. Una volta sono andato a una conferenza, una missions conference, e mia moglie e io stavamo a questo tavolo dell'Austria con informazioni sull'Austria, e venne una signora e dice, io pregherò per voi, sapete, io ho sentito che l'Austria è il cimitero dei missionari. E io dicevo, grazie. No, però a quel tempo ci ridevo perché ero così pieno. Poi dopo 3 anni che non succede niente, comincio a dire, cosa ha detto quella signora là? State ridendo, ora? Ok. No, veramente. Ci sono momenti nella tua vita dove tu hai tanta visione e certe volte, come è successo a Giuseppe, Giuseppe, sì. Che dici i tuoi sogni ai tuoi fratelli, oh, io ho avuto un sogno, dice suo padre, ho sognato che voi vi inchinevate tutti davanti a me, vi piegavate, oh, e sperava che tutti erano, dice, ma che bel sogno, ma è andato tutto dall'altra parte, dalla parte opposta, tutto dalla parte opposta. E a volte succedono cose del genere nella nostra vita. Io sono venuto stasera a predicare non tanto alla Chiesa, sono venuto a predicare a tanti individui qui che il Signore vuole preparare per il futuro di questa Chiesa. Sapete, Dio non è intimidito, non si fa intimidire da nessuno e vuole esprimersi tramite uomini e donne che sono esseri umani, ma che molto spesso sono intimiditi dalla vita, intimiditi dai loro stessi errori. Sapete, i nostri errori sono spesso quello che ci possono intimidire di più di ogni altra cosa, perché noi sappiamo che cosa abbiamo fatto, sappiamo che cosa è qua dentro e ci lasciamo intimidire da queste cose. E il Signore vuole liberarci anche di questa intimidazione che viene dai nostri errori, dal nostro passato. Il momento quando Pietro fu chiesto da Gesù se ancora tu mi ami, Pietro era totalmente intimidito. Era un Pietro che diceva, ma tu lo sai, Signore, non so se... Normalmente Pietro rispondeva sempre a tutte le domande con tanta boldness. Ma questa volta Pietro dice, ma sì, no, tu lo sai, Signore. Pietro è intimidito dai suoi stessi errori, da quello che aveva appena fatto. E c'è gente qui che è intimidita dai suoi errori. E il Signore vuole liberarti oggi da questa intimidazione. Vuole che tu corri con tutta la Chiesa in tutto quello che il Signore ha per voi. Amen. In 2 Timoteo, capitolo 1, Paolo parla a questo giovane qui e dice queste parole a Young Timothy. 2 Timoteo, capitolo 1, verso... Sì, dice Paolo, per questo motivo ti ricordo, dice a questo giovane, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Una volta Paolo ha posto le mani a Timoteo e ha dato un dono, gli ha dato un dono. È una cosa molto potente, anche nella mia vita è successo. Dio infatti ci ha dato, dice, uno spirito non di timidezza. Sapete che questa parola timidezza nel testo originale è l'unico momento dove è scritto veramente timidezza. Molte altre traduzioni della Bibbia dicono non ci ha dato uno spirito di paura, ma non è paura, è timidezza, esattamente come è scritto qua, timidezza. Perché quello che era successo a Timoteo era esattamente questo, Timoteo non aveva paura, no, era diventato timido. E sapete perché Paolo dice a Timoteo che Dio non ci ha dato lo spirito di timidezza? È perché Paolo non conosceva Timoteo come un giovane timido. C'è gente che pensa che Timoteo era timido. Timoteo non era timido. Dice, non ci ha dato lo spirito di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. In altre parole, Paolo dice questa parola a Timoteo perché Timoteo stava combattendo contro timidezza. In un altro verso della Bibbia, in 1 Timoteo, capitolo 1, verso 3, è scritto, Paolo dice a Timoteo, un po' prima, dice in un'altra lettera a Timoteo, la prima lettera, dice, come già ti dissi mentre partivo per la Macedonia, ti prego di rimanere lì a Efeso per far tacere quei tali che stanno insegnando altre false dottrine. Senti qua, Paolo lascia Timoteo a Efeso. Efeso era un posto pieno di gente con tanta testa, diciamo, erano gente molto colta, gente istruita, filosofi, gente che parlava e sapeva di che stavano dicendo. Paolo lascia Timoteo a Efeso per far tacere quei tali che stanno insegnando altre false dottrine. Metti fine una buona volta ai miti, alle favole e alle genealogie interminabili. Queste idee strambe suscitano soltanto discussioni anziché aiutare la gente ad accettare il piano di Dio che si fonda sulla fede. Verso 7, pretendono di essere dottori nella legge di Dio mentre non conoscono in realtà né quello di cui parlano né quello che affermano con tanta sicurezza. Ora, quello che era successo era che Timoteo era arrivato a Efeso, era poi rimasto a Efeso, infatti è diventato pastore di Efeso, della chiesa di Efeso, una grande chiesa a Efeso. E quello che è successo, quando è arrivato a fare quello che Paolo gli ha detto di fare, si è fatto intimidire. La gente parlava, tutte queste tutte queste filosofie, tutte queste cose. E Timoteo all'inizio rispondeva, ma poi dopo un po' si è ritirato. Ha cominciato a farsi intimidire, diventare timido. No, di nuovo lo dico, quando tu vieni intimidito da qualcosa è perché su una certa cosa nella tua vita, che prima non eri timido, diventi timido. Cominci a tacere su cose che prima parlavi. Cominci a non credere più su cose che prima credevi con tutto il tuo cuore. E cose del genere succedono. Quindi, questa essere intimidito non è una cosa che è molto apparente, ma molto spesso è dentro di noi. E ci influenza la nostra vita. E essere intimiditi può succedere a chiunque. Sapete, anche il profeta Elia una volta fu intimidito quando una donna gli ha detto: io ti uccido, io ti taglio la testa. E si è fatto intimidire da questo. Questa intimidazione ha causato un profeta di Dio di ritirarsi, che Dio stesso ha detto: ma che fai? Che fai qui, Elia? A volte delle cose che sono più grandi di noi possono intimidirci. C'è gente qui che è intimidita dalla gente che è meglio di te a fianco a te. Che il dono di questa gente è più sviluppato e tu ti sei intimidito e ti tiri indietro e dici, c'è veramente una persona qui, almeno una persona che dice, sì, ma c'è già gente così brava che posso portare io. E Dio dice, non pensare a questo, non pensare a questo, non rimpicciolirti, non diventare piccolo, non farti piccolo soltanto perché c'è Gesù gigante a fianco a te. La Chiesa deve incoraggiare la gente a crescere, a essere giganti in quello che facciamo. Ma la gente che cresce, non, se tu hai questo spirito che ti fa intimidire, sarai intimidito dalla gente che è in gamba. E questa persona che è qui, che tu dici, Gianni, questo sono io sono intimidito. La gente che sono bravi intorno a me, prima avevo delle visioni, ma ora non ho più il coraggio di propormi, perché c'è altra gente che è molto in gamba. Sapete chi ha fatto il gigante Goliath, si dice in italiano? Goliath. Il gigante Goliath ha intimidito tutto Israele. Ce l'ha fatto quando è uscito, ha detto, c'è uno di voi che può combattere con me. In effetti Israele è una nazione potente, avrebbero potuto battere i filistei. Ma siccome questo gigante è uscito e ha intimidito Israele, questa intimidazione ha paralizzato Israele. Fino a quando è venuto un Davide che non si faceva intimidire. Ha detto, no, con me non funziona. E alla fine di stasera, ognuno di voi dovrebbe dire, no, con me non funziona. No, con me non funziona. No, con me non funziona. Qualsiasi cosa ti ha intimidito, che ti ha fatto rimpicciolire, ti ha fatto fare passi indietro, ha abbassato il volume della tua vita. La fede forse è stata abbassata il volume. Il Signore dice, voglio togliere questo spirito. È interessante che Paolo dice in altre traduzioni, non ci ha dato uno spirito. Senti, spirito. Quello che è successo con Elia non era, ah sì, ha avuto un po' paura. No. Come può una donna che dice, io ti taglio la testa, essere più potente di 400 profeti di Baal? È impossibile. È stato intimidito, uno spirito ha influenzato il profeta, così che lui si è tirato indietro. Forse c'è gente qui oggi che è intimidita nelle relazioni. C'è sicuramente qui una persona, tu sei intimidito dalla persona con la quale tu vivi. Non è perché sono cattivi, no. Non pregare mai, Signore, togli questa persona intorno a me che mi intimidiscono. No, non fare questo. Dì, Signore, toglimi lo spirito di timidità. Così io posso veramente alzarmi e essere tutto quello che io voglio essere. La maggioranza può essere anche qualcosa che può intimidire. Quando tu sei nella scuola, la maggior parte dei tuoi amici hanno un modo di vedere. Sentite, più che mai la Chiesa di Cristo non può permettersi di essere intimidita. Se noi, essere sale, luce e sale della terra è impossibile, se noi ci facciamo intimidire, se noi cominciamo a stare attenti a quello che diciamo perché non vogliamo offendere, non diciamo più Gesù è l'unica via. Io non so com'è qui in Italia, ma a Vienna la gente ha così tanta paura, molti cristiani non dicono più quello che pensano perché non vogliono essere chiamati, voi discriminate la gente, voi siete questo, avete questa fobia, eccetera. Non diciamo più molto, non possiamo essere luce e sale della terra se lasciamo che queste cose ci intimidiscano. Quando la gente dice, tu sei, come si dice, old fashioned. Tu sei bigotto, non fatti impaurire da queste parole. Io non so che cosa vuoi dire, ma no. Continua a dire quello che dici, non farti intimidire. La Chiesa di Cristo non può permettersi di farsi intimidire oggi. Perciò lo Spirito Santo è qui stasera per togliere ogni intimidazione da noi. Amen. Che cosa può essere un'altra cosa? I tuoi fallimenti, come ho detto prima, ci intimidiscono. C'è un uomo che conosco a Vienna, aveva un'idea eccezionale di business. Era così intimidito da 3 fallimenti che ha detto no, non lo faccio, non provo più. Una volta uno ha detto, vuoi raddoppiare il tuo successo? Raddoppia i tuoi fallimenti. Possiamo alzarci in piedi tutti, per favore? Spirito Santo, io ti chiedo di aiutarmi ora, perché in pochi minuti, potrebbero bastare per cambiare il corso della vita di molta gente qui stasera. Se puoi chiudi gli occhi, per favore, chiudi gli occhi. C'è una persona qui, una donna, una ragazza. Tu hai molto da dire, non perché parli molto, infatti non parli molto, ma c'hai molto da dire, c'è molto da parlare, io voglio usarti ancora di più, ma tu in questo momento non credi che tu hai qualcosa da dire che la gente vuol sentire. Ti sei fatta convincere dagli amici tuoi che non sono credenti, penso forse amici di studio, che tu non hai molto da dire e quindi tu non dici molto. Eppure quello che hai da dire sono parole che questi tuoi amici vorrebbero sentire. E il Signore ti vuole dire, scuoti questa timidità dalla tua vita. Quello che voglio fare è che io non sto parlando di se sei una persona timida. Essere timidi non è un peccato. Non ho parlato di essere timidi oggi come personalità, no? Questo non è quello che sto dicendo. Quello che sto dicendo è che quando sei stato intimidito e su cose importanti della tua vita hai abbassato il volume, ti sei tirato indietro, ti sei fatta piccola o piccolo nella chiesa, qui nel Gospels sei forte, ma quando esci ti ritiri, abbassi il volume. E quindi questa gente il Signore vuole liberare. Io sono sicuro che in un secondo può succedere. Amen. Quindi se tu ti senti colpito oggi da quello che ho detto e dici, Gianni, sono io voglio rialzarmi, voglio aprirmi di nuovo, non voglio essere rimpicciolito, voglio ingrandirmi di nuovo in quello che è diventato piccolo nella mia vita, ti chiedo di venire qui davanti al team pastorale, se potete aiutarmi a pregare per la gente. Ci sono alcuni qui che devono venire avanti, quindi se vuoi fare questo ti chiedo di venire avanti ora. Esci da dove sei, così pregheremo per te. Amen.